Per gli uomini è inconcepibile il sempre stato, il non nato, l'inizio e la fine nel non inizio e nella non fine. L'eternità, parola che porta in sé tutta la magia di due creature, sempre esistite in una non forma di luce, bellezza e intelligenza. Ad un certo punto del tempo sempre presente, il Dio e la Dea decisero di avere dei figli da amare e di cantare la loro musica e dipingere farfalle nel vento. Assieme cantarono ed esplose la luce viola. Il suono del loro pensiero divenne fragoroso e si materializzò nell'energia dell'Om, del Do e del Mu. Come il muggito di una mucca pazza, il frastuono del tuono e il mughio del mare. Thank you. L'esperimento era loro piaciuto. La dea però voleva fare di più. E il dio ridendo la travolse, ed ella a sua volta si unì nella sua risata. Qualcosa scaturiva dal mezzo del loro essere. Una forma di luce color oro, fatta come una colomba in volo. Il loro spirito aveva creato il fare, il plesso solare, il centro dell'universo. Esseri divini si innamorarono delle loro risate, ma vollero ancor di più. La mente nel suo pensiero e il fare non erano completati per generare la vita. La dea si commosse e iniziò a piangere quando vide il suo compagno diventare di un azzurro celestiale. Sotto la mente c'era una luce fresca e gentile. Era il sentimento che li faceva tremare di emozione. Anche la dea emanava quella luce, ed entrambi, presi da estasi l'uno per l'altra, iniziarono a cantare con suono argentino. La bianca energia che li conteneva come in un bozzolo vibrò fortemente e loro presero una forma. Avevano mani, piedi, gambe e visi splendenti con occhi di cielo e capelli di filigrana d'oro. Essi si guardarono e si scoprirono, accarezzando entrambi le loro forme che davano loro l'impressione di una cosa che chiamarono corpo. Dal loro ventre si scatenò una forte luce vermiglia che cambiava colore ogni volta che essi si sfioravano. Ma dal bozzo prima delle loro gambe c'era qualcosa di diverso fra loro, per forma e per natura. Anche se il rosso del suono del re era così unico e forte da attrarli e stordirli dalla grande passione che sentivano l'uno per l'altra. ma dalla parte alta del loro petto scaturì una luce verde così forte da farli barcollare. Qualcosa dentro di loro batteva forte all'impazzata. Era come un orologio a loro sconosciuto. Lì non c'era il tempo e l'orologio non era stato inventato. Era l'amore, puro, forte, tremendo, che li scuoteva. Si abbracciarono tremando e capirono che quello era l'amore vero e puro. la luce bianca che li conteneva, si commosse così tanto che si contrasse su se stessa e poi esplose così forte che le due creature furono catapultate fuori. Per fortuna, però, restarono attaccate a quel sole con una corda lunga e solida che mai si spezzò. Essi erano nati alla vita, pronti per creare la vita di ogni cosa esistente. Thank you. Tante cose sono accadute da quel tempo ad oggi. Noi siamo qui, ma anche loro sono qui, vicino a noi, per distruggere ciò che non è loro e ricreare l'armonia del loro amore, mai ritrovato e mai perduto. Thank you. Thank you.